9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 21 aprile. Questa puntata è dedicata a un tema sul quale voglio sentirvi, voglio sentire le vostre opinioni che mi auguro non troppo calde, perché col precedente che io ci ho impresso ancora sul mio volto all'indomani del sisma di Fukushima, poiché il tema di oggi è, ve lo annuncio, il no al nucleare assunto dal governo dopo anni in cui questo governo aveva detto dal nucleare bisogna tornare all'energia atomica, di lì bisogna ricavare il 25% del mix energetico nazionale, bisogna diminuire la dipendenza energetica dall'estero, noi abbiamo troppo gas e troppo petrolio, bisogna abbattere il costo di produzione che porta le nostre bollette a essere molto molto più care sia ai clienti privati sia alle imprese. E ora, dopo Fukushima, e a mio giudizio naturalmente minoritario, non abbiamo ancora gli elementi per farci certo dire che è stato qualcosa come Chernobyl. Inciso, quelli come me pensano che anche dopo Chernobyl sia stata una merita stupidaggine procedere alla scelta che facemmo noi da soli tra tutti i paesi avanzati. In conclusione, il governo, come avete letto, ha preso ieri dai 3 giornali, potete leggere e rileggere sui giornali di ieri e di oggi, ha votato lo stop definitivo al nucleare, quindi non è più una moratoria, è la rinuncia, non ci si entra più. Tutta la filiera di imprese italiane che si era organizzata in questi 3 anni, in previsione del fatto di ridar vita a tecnologie e competenze che ci sono già e sono state mantenute nel nostro paese, anche perché in previsione di questo, e non solo in previsione di questo, ma gruppi come Enel nella loro crescita internazionale hanno acquisito nel frattempo negli anni il controllo e la gestione di impianti nucleari, sia pure di tecnologie superate, ma tutte le imprese italiane che si erano entrate nell'orbita di idee, avevano investito per questo, avevano organizzato le loro tecnologie, i loro investimenti per essere pronte alla realizzazione di questo 25% di fabbisogno energetico, per via di dati su Fukushima, di un confronto attento e serio, dati alla mano sul conto economico che discenderà da questa nuova decisione? No, io non l'ho visto né l'uno né l'altro, e quindi io dico che questa scelta non la capisco proprio, e mi sembra l'ennesimo segno a conferma di un paese la cui classe dirigenti si fanno prendere da interessi innominabili. All'epoca ci furono, nel no al nucleare, ne so qualcosa, ve l'ho già raccontato, ero capo stampa di un partito che di fronte al referendum si vide proporre insieme a quelli degli altri partiti i dividendi della realizzazione del ciclo combinato, che è stato poi il mix che abbiamo scelto. Quindi insomma, adesso interessi non so, naturalmente ci sono gli interessi in ballo delle rinnovabili, che sono al settore che beneficerà di più, immagino, di questo tipo di mix. Però il problema è che, oltre che gli interessi, che non hanno niente di male, basta semplicemente che siano individuabili agli occhi di noi tutti in maniera da fare conti economici, ci sono poi emotività, calcoli politici immediati, all'epoca per un referendum chi lo propose e poi lo vinse, oggi per un referendum da evitare, che secondo me era sbagliato, ma poi il conto economico a chi va? Siamo in grado di capirlo? Siamo in grado di capire quanto è già grave il gap che paghiamo? E voi siete così convinti davvero che decenni e decenni e decenni di aggravi di queste proporzioni, di cui non so quanto siate davvero consapevoli, siano il conto giusto da pagare per che cosa? Per una fonte di cui siete convinti che produca stragi innominabili? Non lo so, e qui le comparazioni internazionali, che per terawattora, a parità di terawattora prodotto, dicono che il nucleare civile, da quando c'è, da 60 anni, ne produce 0,4 vittime per terawattora. Invece, tanto per essere chiari, il carbone è 160 rispetto a 0,04. Però io mi fermo qua, ho dato il mio giudizio. Ne ho preso abbastanza di botte, perché ripeto, mi arrivarono 40.000 più o meno mail, di cui 39.000 più o meno e 100 graduavano tra il cancro che mi venisse, moltissime, e l'incompetenza assoluta, il fatto che fossi pagato da questo o da quello. Oggi ripropongo il problema all'indomani di questa scelta del governo e lo consegno pari pari nelle mani dei nostri esperti, nella convinzione, nella speranza che almeno da loro vengano degli elementi tali da farmi smentire e da non farmi apparire la solita mosca cocchiera convinta che le decisioni in un paese serio è un paese soprattutto che ha nel gap energetico una delle esternalità negative di maggior peso che giustificano purtroppo la bassa crescita del nostro paese, e che mi smentiscano, che invece questa è una decisione saggia e il cui conto economico e le cui conseguenze sono in grado di descriverci, descrivendoci che cos'altro prenderà il posto di quel 25%, oppure probabilmente che a quel 25% nessuno ci aveva mai creduto, che l'altra italica visione per cui tante volte si dice, ma per finta, gli interlocutori si oppongono, ma sanno che è per finta, e poi tutto si sperimenta davvero che era per finta, come in questo caso molto probabilmente andrà a finire. Gli esperti, Davide Tabarelli, uno dei più grandi esperti di energia del nostro paese, presidente di Nomisma Energia. Buongiorno a Davide Tabarelli. Grazie, grazie, buongiorno. Chicco Testa, presidente del Forum Nucleare Italiano e al centro di polemiche, dal mio punto di vista coraggiose, ma comunque insomma animate in questi ultimi mesi pre-referendum. Buongiorno a Chicco Testa. Buongiorno, se vuoi ti mando un po' delle mail che devo io. Immagino. Carlo Stagnaro, direttore ricerca e studi istituto Bruno Leoni. Buongiorno a Carlo Stagnaro. Buongiorno, cercherò di mettermi nella condizione di ricevere anch'io qualche mail. No. Lei deve fare la persona, lo studioso. Tabarelli, le chiedo, al di là, lasciamo perdere, ce lo aspettavamo o non ce lo aspettavamo. No, io le chiedo, dal suo punto di vista, chi fa girare numeri dell'energia da tanti anni nel nostro paese, ed è, lo sappiamo tutti, e gli aveva riconosciuto, un faro dell'orientamento anche dell'informazione in questa materia nel nostro paese, in maniera bipartisan, equilibrata, tutti glielo riconoscono, è così. Questa premessa per dire a chi è a casa e non conoscete Davide Tabarelli, non pensate che sia il torbido Giannino che c'ha qui un prestanome. Io voglio semplicemente dire, lei che impressione, che conti si fa delle conseguenze di questa scelta, quali tipi di fonti, visto che nel frattempo avevamo adottato il governo, ha adottato una misura per me comprensibile di riduzione rispetto all'eccesso precedente degli incentivi al fotovoltaico, tutto si avvita, ma la conclusione è che cosa ci aspetta dal punto di vista delle conseguenze economiche di medio e lungo periodo? Ma la conclusione più grave, più triste, è questo 20%-30% in più che abbiamo noi sull'energia, in particolare elettrica, rispetto agli altri paesi europei, OCSE, nell'industria in particolare. La nostra economia, lei e voi fate molta informazione economica, si regge, non siamo nelle condizioni dei pigs della Grecia o del Portogallo, perché abbiamo delle grandi esportazioni grazie alla nostra piccola impresa, che riesce a fare ancora quello che facciamo da 2000 anni molto bene, dei manufatti. Questi manufatti si fanno con l'elettricità soprattutto, e l'elettricità costa 20-30% in più. Questa è la conclusione di questa vicenda, ma vorrei anche tranquillizzare, non è che quanto accaduto in queste ore, in questi mesi, sia molto diverso da quello che accade negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, cioè ci inseriamo nel comportamento di lungo termine di questo paese caratterizzato dall'impossibilità di fare decisioni di grande respiro, di grande coraggio e di grande portata. Ecco, perciò alla fine scegliamo, grazie alle liberalizzazioni, tutti i cicli combinati che vanno tutto a gas. Adesso siamo l'unico paese al mondo che dipende così tanto nella generazione elettrica da gas importato. C'è l'UK che usa molto gas, ma è tutto nazionale. E niente, alla fine è questo, ecco, penalizzare il nostro sistema produttivo, e anche, cioè, questo è la cosa più pericolosa, è che ci sia questo distacco dalla realtà, che è una realtà preziosa, ricca, che del nostro paese, che è l'industria, l'industria del fare, di fare dalla crema di cioccolato fino ad Armani, passando per gli acciai forgiati del Lecchese, o che ne so, anche il sofà di Matera, o le nuove cose che faranno Termini Imerese, più elettricità. Noi abbiamo il dovere di dire come fornire di elettricità a condizioni più competitive e sicure questo sistema produttivo. Lei ci credeva o ci ha creduto che davvero avremmo rimesso mano al nucleare, Tabarelli? No, ero abbastanza scettico, come tutti quelli che sono un po' esperti su questa cosa, però in particolare all'inizio mi sembra di essere ieri l'87, l'88, quando il dibattito sul nucleare era molto più acceso, approfondito, e comunque si decise per andare per ragioni politiche immediate, di non farlo. E perciò 25 anni da allora, adesso sono per il nucleare che dura 60-80 anni, e sono dei tempi abbastanza brevi, perciò eravamo tutti abbastanza scettici, però noi esperti e tutti coloro che si occupano di scienza hanno il dovere di dire che questo paese non deve essere solo il paese che non può farlo perché non si riesce a fare il termovalorizzatore a Napoli, questo è il paese che ha la tradizione di Enrico Fermi e, se mi consente l'esagerazione, di Galileo Galilei, cioè, e non possiamo dimenticarci che ci sono delle facoltà come Padova, Bologna, Roma, che hanno fatto la storia della fisica e che non possiamo gestire le scorie, che è un problema certamente. No, però Tabarelli, guardi, lasciamo al netto, perché sennò non basterebbero sette ore, sia l'obiezione di chi dice tanto in Italia è tutto in mano alle cricche e alle mafie, sia l'obiezione no, i sistemi complessi sono antimoderni in quanto antidemocratici, perché oggi occupiamoci solo del conto economico, per così dire, ecco, perché già basta quello come ragionamento. L'ultima domanda che le faccio in questa prima parte, a chi dice ma quale intensità da nucleare, a quale continuità di produzione da nucleare, mettiamo dovunque tutto ciò che è possibile di pannelli fotovoltaici ed eolico, questa controproposta da una parte, e dall'altra di chi dice ma perché questa generazione nucleare, ma c'è la fusione pronta a Bologna, c'è il torio pronto, facciamo le altre cose. Ecco, a questo due tipi di osservazione lei che risposte dà, senza entrare da troppo nello specifico tecnico, ma diciamo mi fa piacere chiederlo a lei, perché se lo dico io sono biased dal fatto di pensarlo in un certo modo. Ma innanzitutto viene da sorridere, ma allo stesso tempo ha un senso di colpa, perché vuol dire che non spieghiamo bene le cose alla gente, quando si diffonde questa convinzione che basta questa generazione diffusa, che ci sono delle buone idee, ma le rinnovabili danno, come la stessa direttiva dice, arriveremo sì e no al 20%, l'Italia al 17%, rimane tutto un altro 80%, nella produzione elettrica danno un'energia elettrica a bassa tensione, diffusa, intermittente, che non è quello che stiamo consumando da 150 anni. Perciò proviamoci, facciamone di più, ci vogliono queste cose che sono le reti intelligenti, difficilissime. Le altre soluzioni sul nucleare, anche questa è grande ricerca, ma allora io direi fusione, non rinunciamo a questo, cioè teniamo aperto tutto, ma con estremo realismo. Chicco Testa, lei era tra quelli che più si è esposto, se lo aspettava che finisse così? Al netto di Fukushima, si aspettava questa decisione che non è una moratoria ma è un'uscita così improvvisamente unilaterale? No, che vuol dire al netto di Fukushima? È chiaro che Fukushima è stata decisiva in questa decisione, no? Sì, però voglio dire, Fukushima poteva portare alla moratoria, e questa è un'uscita che non è una moratoria. Ma posso darti del tu? Certamente. Guarda, referendum, moratoria o legge, quel che è certo è che per tanti motivi che conosciamo, per come è fatto il nostro paese, dopo Fukushima noi avremmo avuto uno stop, no? Ora quanto sarà lungo questo stop, se sarà uno stop definitivo o no, dipenderà da tante cose. Innanzitutto dipenderà dal contesto internazionale. Quello che io oggi posso prevedere è che, a parte l'eccezione della Germania, e tutti siamo curiosi di vedere come la commissione messa su dalla Merkel, fatta da preti, filosofi e giuristi, riuscirà a sostituire la produzione nucleare tedesca, certamente non con le rinnovabili. Difatti l'altro giorno la Merkel ha parlato di nuovi impianti a gas e a carbone, ma a parte questo, gli Stati Uniti non hanno nessuna intenzione di rinunciare all'energia nucleare, la Cina ha confermato i suoi programmi, l'India pure, i paesi dell'est europeo, anche le grandi aree geografiche del mondo continueranno. Se siamo intelligenti e sappiamo guardare cosa succede nel mondo, forse possiamo riprendere in mano la questione, altrimenti Tabarelli ha detto ero scettico anche prima, anch'io ero scettico anche prima, mi sono buttato in questa impresa proprio sul discorso che tu hai fatto sui sistemi complessi, no? L'obiezione più frequente che mi è stata fatta è tanto questo paese non è capace, tanto questo paese è in mano alla camorra, e io ho sempre rovesciato il discorso, perché questo paese non è capace o questo paese è in mano alla camorra proprio perché noi da decenni facciamo cose senza significato, cose povere, mentre invece per noi sperimentarci e provarci in programmi ad alta tecnologia, complessi, cioè all'Augusta Westland, dove si costruisce l'elicottero su cui avrebbe dovuto volare il Presidente degli Stati Uniti, non si parla di infiltrazioni camorristiche, si parla di ingegneri qualificatissimi. Ecco, quindi era una sfida prima di tutto intellettuale e culturale. Persa, la sfida l'abbiamo persa. Io continuo a dire che preferisco dire al netto di Fukushima, infatti per questo, perché poi sto riscaldando il pubblico che continua a dirmi che io sono uno che valuta solo la vita in termini economici. Mi pare che io sia uno che valuta la vita in termini economici. La vostra vita su che cosa si valuta? Su qualcosa diverso che dal costo che pagate? Perdonate, questo non è cinismo, questo è un minimo di realismo. Ragazzi in ascolto, che state mandando una bella raffica come al solito di osservazioni critiche. Quanti di voi sono in grado di dirmi qual è il conto comparato davvero delle vittime prodotte per una stessa quantità di energia da fonti diverse? Perché siete così sordi e totalmente indifferenti al fatto che qualunque altra fonte di produzione di energia produce incomparabilmente per fattori N comparati più vittime di quella che in 60 anni ha prodotto il nucleare civile, compresa Chernobyl, compresa quindi l'incidente più grave che avevamo alle spalle, e compreso Fukushima, che tuttavia non è di quella portata. Bene, l'indifferenza e il cinismo sono miei che faccio ragionamenti economici, o evidentemente sono così diffusi per ragioni che vi fanno sentire più virtuosi, che vi fanno sentire migliori, che vi fanno sentire portatori di una civiltà che è incapace oramai di essere complessa e moderna, perché questo è il sottinteso. La civiltà vera è diventata qualche cosa che diffida della capacità di andare avanti. Al primo comet che cadeva rinunciavamo ai reattori civili, secondo voi? Io non lo so, può essere che il cinismo sia improvvisamente albergato solo nel mio cuore. Stagnaro, dal suo punto di vista le conseguenze di questa decisione quali saranno? Al netto del fatto che non si fa più il referendum, forse almeno questo è un dato positivo. Ma sì, positivo per modo di dire, nel senso che come dire, io ero stato tra quelli che avevano detto dopo Fukushima che sarebbe stato utile trovare dei modi per comprare tempo per capire quello che era accaduto e quali lezioni questo ci avrebbe dato, e quindi anche quantomeno spostare il referendum più in là. Certo, far saltare il referendum abrogando le norme e quindi di fatto anticipando il suo esito positivo è un po' come trattasi di resa incondizionata, moglie, trattasi di resa incondizionata. Esatto, trattasi di sì, esatto, insomma, non è che c'è molto da girarci intorno. Secondo me questa decisione avrà due tipi di conseguenze. Una conseguenza diretta è che la probabilità di realizzare centrali nucleari in questo paese, anche nel medio-lungo periodo o perlomeno nel futuro prevedibile, è molto più bassa di quanto non fosse prima, e già prima non è che fosse particolarmente alta, per le ragioni che ha ricordato Davide Tabarelli, perché comunque insomma il ceto politico, il nucleare è una tecnologia ad alta intensità di capitale, cioè quando la gran parte del costo sta nell'investimento iniziale, e quindi gli investimenti nel nucleare sono particolarmente sensibili al rischio politico, al rischio che il governo o uno dei prossimi governi cambi idea. E come dire, l'aspettativa che questo rischio fosse alto c'era già prima. Oggi abbiamo avuto la dimostrazione che questo rischio c'era ed era ben più che concreto. Ma oltre a questo c'è anche un altro effetto indiretto che non riguarda di per sé il nucleare. Il mondo che ci guarda vede un paese che fino a un mese e mezzo fa, due mesi fa, diceva che avrebbe prodotto un quarto del suo fabbisogno elettrico col nucleare e che dopo un mese decide di rinunciare a questa strada. E l'immagine che questo trasmette è quello di un paese inaffidabile, di un paese che prende decisioni e le cambia dal giorno alla notte. E in un paese così non si è indotti a investire. E quindi, come dire, la portata, l'onda lunga di questa decisione sicuramente andrà a impattare anche tutta una serie di altri settori che non hanno nulla a che vedere con il nucleare, che non hanno nulla a che vedere con l'energia. Noi abbiamo detto al mondo: non fidatevi di questo paese. Tabarelli, quando il governo, non le chiedo giudizi naturalmente sulle parole espresse dal ministro Romani, ma per capire, per spiegare a chi è a casa, quando il governo dice oramai aspettiamo l'Europa, che cosa bisogna intendere? Ci sarà un coordinamento delle decisioni europee rispetto a chi ha impianti? Noi abbiamo 27 impianti di produzione atomica entro i 200 km dai nostri confini. Oppure è semplicemente qualche cosa che non ho capito io, che forse mi è ignota. Ci sarà una decisione europea su questo, Tabarelli? Ma mi ricollego a quello che dicevo prima, c'è una difficoltà nel nostro paese strutturale della politica nel prendere delle decisioni forti, importanti, perciò ci si affida un po' all'Europa come fonte legislativa a cui ricorre per avere maggiore forza nelle decisioni, perché un po' siamo esterofili noi italiani, un po' perché è vero, è importante quello che dice l'Europa, è però un auspicio, perché uno dei problemi che ha il nucleare in giro per il mondo, in particolare in Europa, sono oltre un centinaio di reattori, molti vicini a noi, è quello che non esistono degli standard comuni, in particolare sulla sicurezza. Esiste questa direttiva, la 71, che deve essere recepita a fine anno anche dall'Italia e che offre un appiglio per la politica per dire guardate che nel resto d'Europa si fa il nucleare, esistono delle indicazioni, saranno ancora generiche, ma a cui ci dovremo adeguare, in particolare paradossalmente per quella cosa più difficile del nucleare, che non è tanto la sicurezza, quanto quello delle scorie, e le scorie noi ce le abbiamo, non le sappiamo ancora gestire, ci costeranno, ci stanno costando tantissimi soldi e paradossalmente però non produciamo nucleare. Certo, ovviamente molti diranno che è meglio non produrne delle altre, è vero, però abbiamo questa eredità, se vogliamo, che dobbiamo gestire, che comunque noi nel nucleare, non come i francesi ovviamente, ci siamo già, e quella dell'Europa è un aiuto che ci verrà per risolvere la questione. L'ultimo sms, quelli precedenti sono molto divertenti perché ci sono alcuni di inni al medievalismo contro il modernismo, ma ce n'è uno in particolare che mi fa un po' sorridere, perché dice: ma ragazzi, ma voi siete matti, conviene comprare all'estero e pagare al 30% in più, anche di più, senza avere i problemi nucleari. Ripeto, 27 impianti a 200 chilometri, quindi il ragionamento è semplicemente pagarla in più. Dopodiché, se voi continuate a dire che sono bombe atomiche e in 60 anni è successo Chernobyl per una follia dei tecnici lì, da una parte, e dall'altra scala Richter intensità 9 e tsunami, e pensate che questa sia la cosa di fronte alla quale sono tutte bombe in attesa di esplodere, può essere che io sia sciocco, ma non credo, a dire la verità. Interroghiamoci ancora e poi, dopo la pubblicità, le telefonate alle quali rispondo non io, ma solo gli esperti. Pubblicità. Eccoci tornati in studio. Ma del resto, mi si fa osservare in alcuni sms, ma del resto, ma come, critichi la decisione del governo? Dovresti invece essere felice delle parole pronunciate ieri dal ministro dell'economia Giulio Tremonti, che dice basta con la pressione fiscale alle imprese. Ma avete ragione! Ma chi è il responsabile delle giacche grigie e di quegli alacri uomini che al seguito del dottor Befera però la realizzano con implacabile, inesorabile, tenace, quotidiana forza? Sono forse io che mi devo compiacere di qualcuno che la descrive così, o sono io che la descrivo da sempre così, beccandomi le qualifiche di essere un amico degli evasori? Io mi compiaccio che sia il ministro. Mi auguro che d'ora in poi tutto ciò che abbiamo criticato in questi anni, ergo, sparisca, se no avremo doppia ragione di criticare. Ma le telefonate degli ascoltatori sull'uscita, che maggioritariamente piace agli italiani, dal nucleare da cui eravamo usciti dopo Chernobyl, pagando molto in più, tutti felici di pagare a casa. Benissimo, mi aspetto telefonate che dicano voglio pagare di più, perché questo però significa, basta che me lo diciate. Stefano da Roma, prego Stefano. Sì, buongiorno Giannini, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Quello che volevo dire è che il radiogiornale che appena, Radio 24 appena concluso alle 9 di mandare, dice che l'area di 20 km intorno alla centrale di Fukushima è stata dichiarata off limits. E quindi, concentrandoci sugli aspetti economici dell'energia nucleare, io mi chiedo se un paese ad alta densità abitativa come il nostro, in caso di incidente, che purtroppo non è mai escludibile, possa permettersi di rinunciare a una porzione così ampia del proprio territorio, perché tutto sommato anche con Chernobyl si è visto, in dimensioni molto maggiori certamente, ma comunque a seguito di problemi, non solamente di incidenti gravissimi nucleari, a seguito di problemi si rischia di perdere la fruibilità, l'abitabilità, la produttività di aree, di territorio così grandi che nel conto economico questo qui va considerato molto attentamente. Certo. Non siamo la Cina o l'Arabia Saudita che possono mettere centrali nucleari nel mezzo del deserto e se succede qualche cosa, vabbè, perdono territori tutto sommato poco produttivi. In qualsiasi infatti Stefano, italiana, tutti, la maggior parte dei paesi europei li ha messi in posti dove non sono in Arabia Saudita e 27 sono le nostre frontiere, tanto per ma essere. Infatti quello di cui stiamo discutendo è l'evoluzione del pensiero, il ripensamento se il modello nucleare così come è fatto adesso è percorribile. Probabilmente ci potreste, io non sto parlando dell'energia nucleare come tecnologia, sto parlando che quella porzione anche minima di rischio che c'è, però rischia di mettere fuori produzione, rischia di amputare un paese di porzioni di territorio produttive, abitative, dove la gente vive, non perché muoiono tutti. Lei prima, cinicamente, sì, mi permetta di dirlo, ha fatto il conto delle vittime comparate, ma una centrale termica che inquina e che quindi fa venire tumore alla popolazione si può spegnere e il pericolo tutto sommato è finito. Una centrale nucleare ti rende improduttiva una porzione di territorio molto molto rilevante per secoli. O se non altro, quindi secondo lei, mi taccio perché questo è cinico, sono io, però siccome è l'outlook energetico quello dell'OCSE che stima del milione di vittime riconducibili ai combustibili fossili, 300.000 l'anno in tutto il mondo per diretta conseguenza dei combustibili fossili, cinico sono io di fronte a quei 300.000. Va bene, d'accordo, continuiamo così. Salvatore dalla provincia di Milano, prego Salvatore. Buongiorno Giannino e buongiorno prego, ai tuoi ospiti. Prego. Mi sente? Sì, prego. Ok, allora volevo cominciare intanto esprimendo la solidarietà perché ho sentito all'inizio che diceva no, che no, niente messaggi. Solidarietà, venga al punto. No, va bene, allora andiamo al punto. Allora io vorrei parlare anch'io al netto di Fukushima, perché Fukushima purtroppo, a parte la tragedia per i giapponesi e per le zone limitrofe, comunque è una cosa che se non fosse capitata sarebbe stata meglio per tutti. È questo, ma la mia opinione è che il nucleare civile comunque è una grandissima bufala, indipendentemente dal problema della sicurezza e delle scorie, e cercherò anche di spiegare il motivo. Allora, innanzitutto, prima lei parlava anche del discorso degli incentivi a fotovoltaico, sì, che costano troppo, eccetera. Allora, primo, gli incentivi, cioè i soldi che noi paghiamo sulla bolletta della luce elettrica, una parte sono chip 6, che sì, non vanno a fotovoltaico, ma vanno per i termovalorizzatori, perché anche quelli, secondo me, sono da chiudere. Ma no, ma si figuri, da decenni però, da chi parla, un po' più recentemente, anche da tutto il gruppo editoriale Sole 24 Ore, criticati perché quella sono stata una mangiatoia di finte assimilate alle rinnovabili, esatto, per tenere buona la concorrenza all'Enel, esatto, facendo a grandi gruppi privati produttori di roba che con le rinnovabili non c'entravano niente, dandogli un pacco di incentivi. Quindi questo, si figuri, un'altra parte vanno per sovvenzionare l'Enel che fa le centrali nucleari nell'est Europa. E poi c'è una grande bufala che il ministro dice spesso e che comunque ormai è diventata quasi una verità, perché a furia di ripetere le cavolate poi diventa una verità, cioè il fatto che l'incentivo del fotovoltaico lo fa costare troppo ed è assolutamente non competitivo. Io ho visto proprio due giorni fa uno studio molto rigoroso, che cercherò di sintetizzare in pochi secondi, che dice che quando si considera il costo del fotovoltaico va considerato anche il fatto che il fotovoltaico, per sua naturale peculiarità, produce nel momento in cui c'è il sole. Sì. Naturalmente. Certo. Questo vuol dire che siccome noi quando compriamo l'energia la compriamo a fascia oraria, per esempio quella nucleare che compriamo dalla Francia la compriamo sotto costo perché la Francia ce l'ha in eccesso, bene, allora in questo caso noi quando produciamo energia dal sole andiamo a produrre energia che ha un valore molto alto, perché nell'ora di picco l'energia, se la dovessimo comprare da altre fonti, ci costerebbe molto di più. Sì. Quindi facendo il saldo reale, matematico, fra il costo dell'incentivo e il risparmio dovuto al fatto di avere energia fotovoltaica praticamente gratuita, ha addirittura abbiamo energia fotovoltaica gratuita, secondo lei? No, dico, al netto degli incentivi poi viene gratis. Certo. Quindi il saldo fra quello che noi spendiamo, se non ricordo male, sono 500 milioni come incentivi. E 500 noi... milioni è un po' mal informato, poi vediamo quali sono le cifre. Vabbè, io ho letto, magari lasci stare il numero, Salvatore. No, se io no, le do no, un no, giudizio sul fatto che il governo ha dovuto ridimensionare, dice che sono 500 milioni, è proprio il numero che conta. Sono miliardi, vedremo quanti. Prego. No, Giannino, quello che volevo dire, lasci stare il numero assoluto, quello che conta però che il saldo fra quello che si spende in incentivi e quello che si risparmia grazie al fatto che l'energia da fotovoltaico costa meno è comunque a favore. Salvatore, se lei dice che fa una addizione lasciando perdere il valore degli addendi, come ha appena detto, Salvatore, io, siccome sono uno spietato che fa anche corso all'università, le dico che la boccio, ma non per il merito di quello che dice. Non si può dire lasci perdere i numeri, tanto comunque la somma è positiva. Salvatore, no, questa non è una maniera di ragionare, abbia pazienza. E comunque, informiamoci di più e meglio, neanche sugli incentivi, era ben informato. Poi gliene diranno altri, gli esperti veri, non il sottoscritto, Pier Francesco d'Arezzo, e poi torniamo ai nostri ospiti. Pier Francesco, prego. Buongiorno dottor Giannino, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, volevo anch'io ricollegarmi un po' a quello che era già stato detto in precedenza in trasmissione. Su fotovoltaico e nucleare. Io vorrei dare pochissime cifre, così sarò breve, veloce, siete contenti anche voi. Lavoro nel fotovoltaico ormai da 7-8 anni circa. Dunque, componente tariffaria A3. Il gettito attuale è di 9 miliardi di euro, più o meno, all'anno. Questo è quanto, diciamo, viene raccolto da questa componente tariffaria 3. È vero che solo una parte viene destinata al fotovoltaico, al momento, secondo me, non più di un 15%. È vero anche quello che diceva l'ascoltatore precedente, che spesso questi 9 miliardi di euro sono stati utilizzati per finanziare altre forme di energia. Componente tariffaria A2, sempre in bolletta, serve appunto a finanziare lo smaltimento e il trattamento residuo delle scorie delle nostre attività nucleari residue. È un costo che ancora esiste, non abbiamo produzione di energia nucleare nel nostro paese, quindi lascio agli ascoltatori il confronto tra una forma di finanziamento che serve a finanziare una nuova tecnologia che nel giro di 3 anni ha visto dimezzare i propri costi, perché siamo passati da circa 7.000 euro a kilowatt installato a 3.000-3.500 euro a kilowatt installato. Poi, mercato del residenziale elettrico in Italia. Diciamo che il fotovoltaico, intervenendo proprio nelle ore di punta, ha comportato minori introiti per le aziende che lavorano nella fornitura di energia elettrica alle famiglie per circa 600 milioni di euro all'anno. Anche questo è un dato che mi sembra abbastanza importante da considerare. Intensità energetica delle nostre aziende, ovvero la quota percentuale di costo dovuta all'utilizzo di energia elettrica, non supera mediamente il 6%. Questo per dire cosa? Che non ci sono soltanto le aziende energivore, come sostiene Confindustria. No, sono anche lo sostiene Confindustria, assolutamente. Abbiamo detto che la componente nel mix di produzione dell'energia elettrica ci deve essere una componente caratterizzata dall'intensità e dalla continuità, perché non sono tutte, come dice lei, non abbiamo mai sostenuto che sono tutte energivore, ma nella specifica vocazione e tipizzazione delle specializzazioni industriali del nostro paese, che dopo la Germania è quello che ha più manifattura tra i paesi avanzati, c'è e resta una componente meccanica, metalmeccanica, siderurgica, eccetera, ad alta intensità di energia elettrica. Questo è quello che diciamo noi quando difendiamo il fatto che per abbattere il prezzo ci vuole appunto una forma di produzione che è intensa e continua, oltre a quella diffusiva dell'autoproduzione, dei piccoli impianti, eccetera. Perché non sono affatto alternative, come abbiamo tentato vanamente, mi rendo conto, di spiegare negli ultimi 2 anni. Non sono affatto alternative, appunto dovevano concorrere in un mix energetico equilibrato. Temo che il fatto di continuare a dire che siano alternative sia, secondo me, una cattiva rappresentazione delle caratteristiche che hanno il fotovoltaico e l'eolico. Questo abbiamo opinioni diverse. Tabarelli, possiamo un secondo fare una riflessione concreta sulla nuova disciplina che deriva dalla rimodulazione decisa dal governo degli incentivi alle rinnovabili? Può essere quantificata in incentivi nei prossimi anni, più o meno in che ordine di grandezza? Ma io non c'è qualche quantificazione ufficiale, quella di Confindustria, ma sopra la cosa importante è che è uscito il decreto, una proposta di decreto ministeriale 2 giorni fa, che è questa sulla rimodulazione del nuovo conto energia, incentivi per il fotovoltaico, dove l'articolo 2 c'è scritto 6-7 miliardi di euro all'anno. 6-7 miliardi di euro all'anno. Ecco. Alcuni ascoltatori, cioè questo è, mentre noi stiamo discutendo noi qua alla radio in maniera positiva e costruttiva di questo argomento, tra l'altro il fotovoltaico, massimo rispetto, energia diffusa, ci mancherebbe, grande entusiasmo, democrazia dell'energia, bellissimo, sole, chi non vorrebbe di più, conta ancora per l'1% del totale della nostra energia italiana, e se migliora va al 7%, ma benissimo, ma tutto il resto non possiamo catturare tutta l'attenzione su questo. La cosa importante è che questi miliardi di euro devono essere spesi bene, perché diceva giustamente quello del signor di Arezzo nel fotovoltaico, si sono dimezzati i costi, ma il costo in Germania rispetto a quello d'Italia è sempre meno della metà di quello che spendiamo noi, perciò se andiamo a dare questi miliardi bisogna spenderli bene. E qua la cosa più grave, l'amministrazione pubblica, la politica che manca, che è debole, che è molle, perché qua per raccontentare tutti con questo decreto sul fotovoltaico si danno tutti questi soldi subito, perché non si riesce a tagliare come si doveva per andare verso la Germania, perché noi incentivi sono 3 volte quelli della Germania, dove tra l'altro c'è meno sole, ma i Germani sono bravissimi, seguiamo il loro esempio. Avranno un successo quest'anno, faranno 20 miliardi di kilowattora, straordinario rispetto ai nostri, quest'anno arriveremo magari a 5 miliardi, adesso nel 2010 2, facciamo come i tedeschi, 20 miliardi ma ne consumano 600 per fare le loro macchine, i loro manufatti che esportano in tutto il mondo, che si paragonano col Brasile, noi dobbiamo fare questo, ma lo dico ma non come perché me ne frega niente dell'energia, lo dico come paese economico che deve stare fra i primi paesi industrializzati, perché noi non ci abbiamo niente se no. Io la penso molto modestamente come Tabarelli. Ora abbiamo un minuto sull'informazione stradale, saltiamo Tabarelli perché poi riprendiamo con una telefonata, si è aggiunta Rosa Filippini, il presidente degli amici della terra, perché giustamente avete molto protestato perché dice ma qui di antinuclearisti veri e convinti no, ma sono stati gli ascoltatori che hanno fatto la parte. Ricominciamo poi con Rosa Filippini e concludiamo con Serena. Grazie a Tabarelli intanto. Strade, eccoci tornati in studio, ancora qualche ascoltatore rapidamente. Pasquale che ci chiama da Catanzaro, prego Pasquale. Buongiorno. Io sinceramente volevo dire una cosa che ho già detto quasi un anno e mezzo fa alla Zanzara, e cioè che il grave veramente è il fatto che ancora non abbiamo un piano energetico. Sono d'accordo sul fatto che io sono contro i nucleari, però sono ancora più in disaccordo con questi no emotivi, che sono assurdi, ridicoli. Noi dobbiamo cominciare ad essere un paese serio, avere un piano energetico e in base al piano energetico magari programmare una ricerca sul nucleare seria, perché se vogliamo parlare di stragi, me lo faccia dire, non dimentichiamoci il Vesuvio. E chiudo qui, grazie. Beh, sono molto d'accordo anche con le sue conclusioni. Carlo da Torino, prego Carlo. Pronto, buongiorno. Le telefono perché sento parlare di tante energie rinnovabili, poco di piccoli impianti idroelettrici che hanno costo minimo, un'efficacia elevata, rischi, costi di manutenzione praticamente nulli e rischi di danno per un loro malfunzionamento inesistente, perché per fare un impianto che faccia, che ne so, anche soltanto tipo 5.000 kilowatt o poco più al giorno, è necessario un invaso, ma non le so dire, microscopico. Non proprio microscopico, Carlo. E il problema è, come sempre, non le so dire e vuol dire che allora non bisogna dirlo. Comunque, aspetti Carlo, volevo dire, non abbiamo parlato dell'ulteriore sviluppo dell'idroelettrico tra le rinnovabili, semplicemente perché la quota idroelettrico italiano è storicamente elevata ed è arrivata quasi al massimo del suo utilizzo. Naturalmente se ne può ancora estendere l'utilizzo. Oggi ci siamo concentrati sull'effetto del venir meno, su quel 20-25% proposto dal governo per la produzione energia elettrica, della fonte invece che era identificata come quella appunto intensa e continua. Ecco, per questo non abbiamo parlato di altro, abbiamo parlato delle rinnovabili, solo del fotovoltaico e dell'eolico. Lei ha ragione comunque a ricordarci che c'è anche quello. Allora, domanda per Rosa Filippini, lo ricordo, presidente degli Amici della Terra, avete vinto, quindi lei oggi è felice? Sì, da un certo punto di vista sì, perché devo dire che non so se avessimo ragione, ma indipendentemente da questo ci abbiamo azzeccato. Cioè il modo di affrontare la questione del nucleare da parte del governo non era molto seria, come alcuni commentatori invece sostenevano. Mi sembra che tutti i passaggi, sia dell'avvio che della fine di questa avventura, di questa mini avventura nucleare, sono stati tutti fuori che seri. Tutti sprovvisti di elementari doti di serietà, questo? Beh sì, su questo sono molto d'accordo con lei. Anche, lo dice anche lei. Sono molto il d'accordo. Il fatto che lei non ci sia una strategia nucleare, una strategia energetica, e che non si possa discutere sulla base di cifre e di dati, non è molto confortante. Questo vale sia per il nucleare che per le rinnovabili che per tutto il resto. E dal vostro punto di vista, voi avete fatto campagna ed eravate in linea in vista del referendum, quel fabbisogno, solo teoricamente, a prescindere dai ritardi e da tutto ciò che non era fatto seriamente per entrare davvero nel nucleare, responsabilità del governo, sono d'accordo, ma quel fabbisogno come si copre, solo con le rinnovabili? Quanto ci costa in più? Giannino, io sono d'accordo con molte cose che lei dice, incluso il fatto che si fa credere che nucleare e mettiamo fotovoltaico siano in contrapposizione, e non è vero, semmai è vero il contrario. Ma una cosa d'approccio che non condivido è quella di parlare solo di elettricità. Allora, il bilancio energetico di un paese non è fatto solo di elettricità, anzi l'elettricità è una parte addirittura minoritaria. Giustissimo. C'è per esempio un 40% del bilancio dell'energia che se ne va in per necessità di riscaldamento. Come no? Su cui nessuno riflette. E su cui siamo enormemente inefficienti, e su questo ha perfettamente ragione. Tra l'altro, gli incentivi su questo davvero che andavano fatti per l'edilizia eco-efficiente, termo-efficiente, eccetera, eccetera, noi siamo terribilmente indietro. Su questo più, l'Italia non parte male in termini di efficienza. Su molti settori questo è un paese all'avanguardia, sia rispetto all'Europa che al resto del mondo. Però abbiamo questo grosso buco che è il residenziale, dove invece abbiamo edifici molto poco efficienti, e questo per ragioni sia storiche, perché abbiamo un grosso patrimonio storico e un indice di rinnovamento molto basso, ma anche per ragioni veramente di sciaguratezza, di non aver pensato, di non aver scelto le cose giuste. Ecco, adesso si potrebbe E quindi ci sono molti margini per fare efficienza sul totale dei consumi, pensiamo anche all'autotrasporto e così via, sul totale dei consumi, in maniera tale da immaginare che non c'è bisogno di questa fonte intensa e continua, ma però ci sono tantissimi margini per fare efficienza al risparmio. E su questo, altra osservazione molto seria, molto saggia, molto giusta, secondo me, Giuseppe Filippini. Stagnaro, nel mondo che l'aspetta di qua ai prossimi 40 anni di vita, che ancora l'attendono, i miei, grazie al cielo, sono molto meno, mi libero dell'Italia molto prima, e questa è la mia intenzione, perché questo mi dicono i medici, ma devo dire che inizia a non dispiacermi troppo, tutto sommato, a meno che non cambi paese, in quel caso mi dispiacerebbe di più, perché sono italiano, ma non sopporto i paesi in cui si sceglie male, secondo me, quindi minoritario, me ne vado in cui uno si sceglie meglio. Ma invece, nei 40 anni che l'aspettano, secondo lei, il mix di fonti sarà molto diverso dall'attuale? Assisteremo a un nucleare di nuova generazione, alla fusione nel mondo, non in Italia, oppure in realtà i prossimi 40 anni sono un po' più o meno come così? Statisticamente sarebbero 50, ma lei sconta il mio stile di vita poco salutista. Esatto. Io credo che il mix energetico Ci tiene a dire che c'era altri 50. Prevedere il futuro è la cosa più complicata che esiste nell'universo, quindi uno deve sempre tirare una monetina. Per quello che possiamo capire rispetto agli elementi di cui disponiamo, il mix di produzione energetica tra 50 anni non sarà drammaticamente diverso da quello che abbiamo oggi, al netto di scoperte imprevedibili. Certo. Ecco, 50 anni fa probabilmente non avremmo saputo prevedere come e quanta energia avremmo prodotto oggi. Alla stessa maniera bisogna avere estrema cautela nel guardare verso il futuro. Di certo non mi aspetto che i cambiamenti arrivino dai soldi distribuiti a pioggia. Comunque, esatto, io penso che i soldi del governo e del contribuente vanno rispettati un po' meglio, i soldi dei consumatori felici di pagare di più vanno rispettati ancora di più, però visto che il governo adesso ci promette la lotta contro la pressione fiscale, siamo tutti felici, senza nucleare pagherete di più quando io non ci sarò. cavoli vostri, perché io me ne vado via prima. Grazie a Davide Tabarelli, a Chicco Testa, a Carlo Stagnaro e a Rosa Filippini, la cui aurea perla di saggezza abbiamo utilizzato troppo poco, quindi la reinviteremo. A domani.